Bruciatore di libri di Alessandra Tedesco. Un noir pieno di umanità. L'umanità ammaccata dei bastardi di Pizzo Falcone, poliziotti di un commissariato di Napoli, e la grande umanità della vittima, un anziano fioraio molto amato nel quartiere. Stiamo parlando del romanzo Fiori di Maurizio De Giovanni, pubblicato da Einaudi. Il fioraio Savio viene ucciso praticamente a botte. Il suo assassino, tra l'altro, ha infierito sul suo corpo. In passato quest'uomo si era schierato apertamente contro il racket delle estorsioni, ma insomma i bastardi di Pizzo Falcone intuiscono quasi da subito che ci deve essere dell'altro. Questo noir fa dunque parte della serie dei Bastardi, da cui, lo ricordiamo, è stata tratta anche una serie TV che va in onda su Rai 1. Allora, questo gruppo di poliziotti un po' sui generis, perché insomma ognuno ha un passato pesante alle spalle, in che fase della loro vita professionale si trovano? Maurizio De Giovanni, come sono in questo tuo romanzo i rapporti fra i vari bastardi di Pizzo Falcone? I bastardi si trovano in una fase di costruzione della squadra. In effetti nel tempo hanno superato con difficoltà le diffidenze che nutrivano ognuno nei confronti degli altri, perché che differenze che derivavano dalla consapevolezza di essere stati inseriti in una squadra raccogliticcia provvisoria che serviva soltanto a liberarsi di loro, ai vari commissariati originari di appartenenza, e a chiudere questo commissariato che era stato oggetto di una malversazione da parte dei precedenti poliziotti. Invece adesso, che erano i veri bastardi, insomma, che erano i veri bastardi, loro sono solo soprannominati così. Sì, i veri bastardi di Pizzo Falcone. Loro invece scoprono che con tutte le loro lesioni, con tutte le loro ferite, con tutte le loro imperfezioni, sono complementari, e la loro squadra si rivela alla fine molto migliore di quanto chiunque, loro stessi inclusi, si sarebbe aspettati. Quindi i bastardi di Pizzo Falcone con Fiori completano il processo di formazione di squadra. Ecco, i bastardi hanno naturalmente diverse caratteristiche personali. Per esempio, l'ispettore Lo Iacono, soprannominato il cinese, ha una sensibilità, notevole. Tu a un certo punto in questo romanzo scrivi: l'ispettore avvertì la sensazione dolorosa che gli era familiare, come ogni volta che assisteva a spettacoli simili. Un senso di pena profonda, quasi fosse al cospetto di un grave spreco, di un'inutile dimostrazione di perfidia, della dilapidazione di un'enorme ricchezza. Prima ancora della rabbia e del dolore, provava una strana malinconia per non aver conosciuto e ascoltato qualcuno che non avrebbe comunicato più niente. Mai più. Di fronte, ecco, alla vista del cadavere, e l'ispettore Lo Iacono è abituato a vedere naturalmente scene del crimine, lui prova sempre questa strana malinconia. Perché? Perché è coinvolto, perché loro sono emotivamente coinvolti. Io non scrivo mai di personaggi, nei miei polizieschi, che rimangono indifferenti al delitto. Il delitto non deve lasciare indifferente, non è una materia di lavoro come le altre. Il delitto è un atto estremo, è il massimo della lesione, il massimo della ferita sociale. Sarebbe assurdo se uno come Lo Iacono, soprattutto uno come Lo Iacono, che ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, il peso della diffidenza, il peso dell'ostilità, sarebbe assurdo se proprio uno come lui rimanesse indifferente a una cosa terribile come il delitto. Nella fattispecie si tratta di un delitto feroce, efferato, un'uccisione a percosse di un anziano, con qualcuno che ha infierito addirittura con una zappa o comunque con un attrezzo a punta sul suo cadavere, ed è una cosa che non può lasciare indifferente nemmeno uno abituato a vedere i morti. Tra l'altro lo Iacono è il personaggio che ha dato un po' il là ai Bastardi di Pizzo Falcone, perché era comparso da solo nel 2012 nel tuo romanzo Il metodo del coccodrillo. All'epoca avevi subito intuito che ti avrebbe portato alla creazione di altri personaggi e quindi di tanti romanzi con protagonisti questi personaggi? No, non avevo idea. Il metodo del coccodrillo è nato per essere un romanzo stand alone, un romanzo unico, che era anzi una prova. Io all'epoca avevo scritto 5 romanzi di Ricciardi, era una prova, mi serviva solo per vedere se fossi o no capace di ambientare una storia in un'epoca che non fosse quella di Ricciardi, in un'epoca contemporanea. E la bellezza di aver scritto il romanzo che vinse il premio Scerbanenko, che è il premio più importante per la letteratura nera italiana, mi portò a provare a continuare questa storia e a vedere che cosa fosse successo allo Iacono. Da questa esigenza, da questa domanda, che cosa potesse essere successo allo Iacono, sono nati i Bastardi di Pizzo Falcone, il primo romanzo, e da lì in poi non mi hanno lasciato più fermarmi, insomma. Tra i lettori che seguono con tanto affetto questa serie, la fiction televisiva che ne è seguita e il successo editoriale, sono stato portato a andare sempre più avanti con una squadra di poliziotti che invece di mostrare saggezza crescono ulteriormente, sorprendendo me stesso ogni volta. Sì, anche perché poi insomma il lettore o lo spettatore della serie TV magari si affeziona in particolar modo ad un personaggio o ad un altro. Per esempio c'è Aragona, che è un po' lo sbruffone del gruppo, l'ignorante, anche un po' becero, maschilista. Lui vorrebbe farsi soprannominare Serpico, eppure, come spesso ti dico, a me fa simpatia, a me fa ridere, perché è effettivamente un eccesso di tutti questi difetti messi insieme e si intuisce che forse dietro c'è dell'altro. Sono troppo ottimista in questo senso? No, hai ragione. Aragona è un mio insuccesso tecnico dal punto di vista della scrittura, perché io lo volevo negativo, lo volevo pieno di difetti, lo volevo che incarnasse proprio la parte difettosa che c'è in tutti i contesti sociali, anche ovviamente in un gruppo di poliziotti. Il problema è che tutti quei meno alla fine danno un più. Cioè tutti quanti quei difetti poi alla fine formano un personaggio nei confronti del quale siamo inevitabilmente indulgenti. Cioè Aragona risulta simpatico mio malgrado, ed è sempre una sorpresa per me. Secondo me ripercorre un po' le strade di quegli italiani rappresentati per esempio da Alberto Sordi o da Carlo Verdone, sai, con tutti i difetti tipici di un personaggio, di un cliché, di uno stereotipo che poi alla fine però, nonostante tutti questi difetti, risulta umano e quindi simpatico. Sì, diciamo che ogni tanto fa sorridere, a volte uno vorrebbe anche prenderlo a sberle, diciamo la verità, però insomma quasi sempre. Ecco, diciamo che suscita sentimenti contrastanti. Ma veniamo alla vittima appunto di questo romanzo Fiori. Abbiamo già detto che si tratta appunto di un fioraio, Savio, che ha 74 anni ed è un uomo che era veramente molto amato nel quartiere a Pizzo Falcone. Che reazione hanno le persone appunto del quartiere? Ma sai, Savio in qualche modo rappresenta la coscienza del quartiere, rappresenta un po' un'identità, è sempre stato lì, ha questa gentilezza, questo sorriso per tutti, conosce il linguaggio dei fiori, che è una cosa anche obsoleta se vuoi, anche un po' antiquata, però è bello che ci sia, c'era nella generazione precedente, accompagna la generazione successiva, è una figura un po' istituzionale, diciamo, del quartiere. Perderlo e perderlo in quel modo getta il quartiere in crisi, cioè c'è una lesione dell'identità del quartiere, della sua memoria, e questa lesione è spiazzante, dolorosa per tutti, motivo per cui anche se attraverso chi dei Bastardi è più in contatto col quartiere, cioè attraverso Pisanelli, c'è anche un deciso modo di aiutare i poliziotti, cosa che non è frequente che accada, spesso purtroppo, soprattutto nei quartieri molto popolari, la polizia induce diffidenza, non si guarda i poliziotti come alleati, ma come nemici, e invece stavolta il quartiere stesso prova a dare una mano ai Bastardi. Ecco, ricordiamo appunto che il vice commissario Pisanelli è malato, ha subito un intervento chirurgico, è ormai fuori servizio, insomma sta per andare in pensione, però è veramente strategico per quanto riguarda queste indagini, perché fra i bastardi di Pizzo Falcone è comunque l'unico che è nato e cresciuto a Pizzo Falcone, quindi conosce tutti, conosce anche i criminali, riesce a parlare a tu per tu anche con i boss della zona. Sì, assolutamente. Lui è assolutamente interno al quartiere, è organico al quartiere. Così riesce a essere vicino, a comprendere tante caratteristiche che sfuggono agli altri. Ecco, questo romanzo Fiori è anche un romanzo che parla molto di pregiudizio, perché c'è per esempio un giovane lavorante della vittima, Basti, che è un albanese, e subito i sospetti di alcuni, per esempio del nostro solito Aragona, appunto Serpico, lo sbruffone, ignorante, eccetera, cadono su di lui, perché addirittura Aragona dice, beh, è albanese, quindi è criminale, questo è il suo ragionamento molto, molto basico. Ecco, quindi hai voluto anche affrontare la questione dei pregiudizi. Pregiudizi che poi si verificano anche per altri personaggi. Sì, credo che il pregiudizio sia il vero nemico, questa gabbia in cui ci chiudiamo tutti più o meno volontariamente e nella quale poi siamo costretti a vivere. Pregiudizi negativi o positivi che siano, quelli che non portano al cambiamento di atteggiamento e di idea, nemmeno di fronte all'evidenza che ci porterebbe a questo. Il pregiudizio è, credo, una delle croci che dobbiamo portarci dietro. Questa città, per esempio, è vittima sempre di pregiudizi e di stereotipi, lo sono anche certi strati sociali. Si pensa, come fa Aragona, e un albanese, un ragazzo albanese tatuato e con i piercing sia automaticamente un delinquente, cosa che ovviamente è assolutamente falsa. Si pensa che una ragazza che fa l'estetista non possa studiare ed è una cosa falsa. Si pensa che un anziano molto ben voluto non abbia nemici ed è una cosa falsa. Sono tutti pregiudizi che di volta in volta, senza contare naturalmente l'omofobia, il razzismo, il classismo, il sessismo, che sono tutte forme menti, tutti pregiudizi che portano all'errore, così come accade tipicamente molte volte in questa storia. Devo dire che la paura del pregiudizio blocca anche un po' alcune delle storie d'amore che sono nate anche fra i bastardi di Pizzo Falcone, perché l'ispettore Lo Iacono ha una storia con il PM Laura Piras, mentre Ottavia Calabrese, che ha un marito, un figlio autistico tra l'altro, ha una relazione con il vicequestore Palma. Ma c'è anche il personaggio di Alex, che addirittura ha rinunciato all'amore della sua vita, a Rosaria, per paura del pregiudizio, perché lei è omosessuale e ha paura di fare coming out. Sì, è vittima lei stessa del pregiudizio di cui soffre. A volte accade, no? Cioè noi subiamo dei pregiudizi ai quali però aderiamo. E chiaramente nel momento in cui aderiamo a quei pregiudizi, questi pregiudizi diventano assolutamente preclusivi di ogni altra voglia di vivere, di ogni altro cambiamento, di ogni altro desiderio. Questo accade molto spesso con le convenzioni sociali. E Alex vive questo pregiudizio in prima persona. In questo romanzo ci sono i fiori, perché la vittima è un fioraio, era un uomo che parlava proprio con le piante, con i fiori, raccontava storie attraverso i fiori, ma in questo romanzo c'è anche la primavera, perché proprio si annusa, tu la descrivi, si sente nell'aria, nei vicoli di Pizzo Falcone. Perché questo elemento della primavera? Perché la primavera è speranza. La primavera è rinascita, è speranza, e io credo che in un periodo come questo sia naturale guardare alla primavera come a qualcosa da raggiungere. Poi sai bene quello che si dice, no? Che in primavera dovremmo, grazie all'arrivo dei vaccini, uscire da questa situazione di costrizione così grave psicologica in cui ci troviamo ormai da quasi un anno. La stessa primavera sporcata da un delitto per contrasto è uno scenario molto più attraente, molto più distopico quasi da raccontare. Quindi la primavera è un periodo in cui la storia nera sta benissimo come ambientazione. Grazie a Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Fiori per i Bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. Grazie a Maurizio. Grazie a te, Alessandra. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Jukebox letterario. Consigli per tutti i gusti. Speciale con il jukebox letterario prima di Natale, insomma un po' di consigli su libri da regalare a se stessi o agli altri. Allora, per chi ama le saghe familiari, consiglio Piano Nobile di Simonetta Agnellorbi, pubblicato da Feltrinelli. Questo è il seguito di Caffè Amaro, ma si può tranquillamente leggere indipendentemente. È la storia di una famiglia palermitana fra il 42 e il 55. Il capostipite, il barone Enrico Sorci, sta per morire e fa un bilancio della sua vita. Il timone passa poi ad uno dei figli, Cola, innamorato della cognata Laura e che con lei ha avuto un figlio. Questo figlio, Carlino, si vede appunto nel romanzo, vive con difficoltà la sua omosessualità. Piano Nobile, Simonetta Agnellorbi, Feltrinelli. Non è prettamente una saga familiare, ma diciamo che è un romanzo che racconta le conseguenze del disamore di una famiglia. Borgo Sud di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi. Questo è il seguito di L'Arminuta, romanzo di successo del 2017. In quel caso si raccontava la storia di una ragazzina nata in una famiglia povera dell'entroterra abruzzese, ma cresciuta dagli zii in un contesto decisamente più evoluto. Quando compie 13 anni viene restituita proprio ai genitori biologici. Quindi per lei è uno shock. Borgo Sud è la storia dell'Arminuta diventata ormai donna, insegna all'università in Francia e ricorda il suo rapporto con la sorella Adriana. Un rapporto fatto di amore ma anche di respingimento. Da ragazzine eravamo inseparabili, scrive Di Pietrantonio. Poi avevamo imparato a perderci. Borgo Sud, Donatella Di Pietrantonio e Einaudi. Per gli appassionati di cronaca nera consiglio La città dei vivi di Nicola La Gioia, pubblicato da Einaudi. Un romanzo che ricostruisce un fatto vero, l'omicidio di Luca Varani avvenuto il 4 marzo 2016 a Roma per mano di due giovani, Manuel Foffo e Marco Prato, al termine di una due giorni di alcol, droga e sesso. La Gioia ha deciso di ricostruire quei fatti parlando con gli amici della vittima ma anche con chi conosceva gli assassini. Assassini che hanno subito confessato, non riuscendo però a spiegare il movente. La città dei vivi di Nicola La Gioia diventa così un'indagine letteraria sull'inconsapevolezza del male. Per chi ama i gialli ironici c'è Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine di Chiara Moscardelli, pubblicato da Giunti. Un romanzo che secondo me ha un giusto mix fra la trama gialla e la narrazione divertente che strappa più di un sorriso. Questa è la seconda avventura della psicologa criminale Teresa Papavero, una donna che si sente sempre inadeguata perché è cresciuta all'ombra del padre, famoso criminologo. Questa volta deve indagare su un cold case, uno scheletro trovato nel muro di uno stabile a Strangolagalli, dove ormai Teresa vive. L'indagine è su un probabile serial killer che si intreccia con le vicende sentimentali della psicologa criminale. Teresa Papavero, lo scheletro nell'intercapedine, Chiara Moscardelli, Giunti. Chi ama i romanzi di spionaggio? Beh, come si sa, da poco è scomparso il maestro delle spy story, John Le Carré. Io consiglio uno dei suoi romanzi più famosi, La Casa Russia, da cui fra l'altro era stato tratto anche un film, storia ambientata nella Russia post-sovietica. È disponibile negli Oscar Mondadori, quindi fra l'altro anche a un prezzo contenuto. Oppure c'è il suo ultimo, La spia che corre sul campo, pubblicato da Mondadori, in cui si fa riferimento alla Gran Bretagna di Brexit e all'America di Trump. Un po' di storie per capire meglio il presente. Iniziamo con La notte si avvicina di Loredana Lipperini, pubblicato da Bompiani. Un romanzo scritto prima del Covid che immagina l'arrivo della peste in un piccolo paese delle Marche. Siamo nel 2008, gli abitanti di Vallescura sono convinti che dall'esterno possa arrivare il pericolo, quindi respingono chi in quel paese non è nato, tendono ad isolarsi. Quando scoppia l'epidemia, l'anziana Saretta, che è un po' la guida degli abitanti, punta il dito contro Maria, una donna andata a vivere da poco a Vallescura e quindi considerata straniera. La caccia all'untore, la ricerca di un capro espiatorio, insomma tutti i meccanismi che abbiamo visto anche noi durante la pandemia da Covid. La notte si avvicina, Loredana Lipperini, Bompiani. E sempre per chi vuole comprendere meglio il mondo che ci circonda, consiglio il romanzo Alba senza giorno di Fernando Coratelli, pubblicato da Italo Svevo. Si intrecciano tre storie: quella di una coppia di giovani rom che lascia la Bulgaria, va da Berlino, poi a Parigi e infine a Milano, dove finisce in un campo. La storia di Roberta, una donna che si oppone alla costruzione del campo rom vicino a casa sua e che incarna, diciamo, una serie di pregiudizi. Infine la storia di Tonino, killer dell''ndrangheta, che ha il compito di uccidere un giovane. Insomma, sono tutte storie che si intrecciano nella Milano di oggi. E poi ancora, sempre per capire meglio il presente, La Valle Oscura di Anna Wiener, pubblicato da Adelphi. È un ritratto spietato della Silicon Valley e di che cosa succede nei nuovi modelli di organizzazione del lavoro, ma anche della vita, che ci coinvolgono un po' tutti. Per gli appassionati di storia, 1914, qualcosa di nuovo sul fronte occidentale. Viaggio sui campi di battaglia della tregua di Natale, scritto da Antonio Besana, pubblicato da Edizioni Ares. Questo è un saggio che prende spunto dai racconti dei soldati per raccontare uno degli episodi rimasti nella storia della Prima Guerra Mondiale, il Natale 1914, festeggiato insieme dai fronti nemici. Soldati tedeschi e inglesi deposero le armi e si incontrarono in una sorta di terra di mezzo, scambiandosi regali e forse, ma questo non è confermato, giocando anche una partita a calcio. Per chi ama leggere graphic novel, consiglio Patria di Tony Feisula, tratto dal romanzo di Fernando Aramburu, pubblicato da Guanda con la traduzione di Yaya Caputo. La storia di una comunità lacerata dal terrorismo basco. Dopo che l'ETA mette fine alla lotta armata, una donna vuole tornare nella casa dove aveva vissuto con il marito assassinato dai terroristi, per tentare una riconciliazione anche con quelli che un tempo erano stati amici. Gli appassionati di libri, di editoria o magari per l'amico che ha il sogno di diventare scrittore, consiglio Fuori di testo, titoli, copertine, fascette e altre diavolerie, scritto da Valentina Notar Berardino, pubblicato da Ponti alle Grazie. È un libro sui libri, i segreti, le curiosità su alcuni bestseller italiani, con le confessioni di autori come Roberto Saviano, Diego De Silva e Massimo Gramellini. Insomma, per capire cosa c'è dietro il successo di un libro e come le strategie di marketing incontrano la qualità letteraria. Per chi si diletta in cucina, in questo periodo sono tanti, e ama guardare per esempio programmi TV come Bake Off, consiglio Glossario di pasticceria di Luca Montersino, pubblicato da Gribaudo. Non è propriamente un libro di ricette, sì, ce ne sono alcuni alla fine, ma diciamo che non è questo il cuore del libro. Ci sono soprattutto tanti consigli utili sulle preparazioni e informazioni sull'uso degli ingredienti per chi ama appunto fare i dolci in casa e magari, chissà, fare anche un salto di qualità. Per gli appassionati di cinema e di psicologia, Al cinema con lo psicanalista di Vittorio Lingiardi, pubblicato da Cortina Editore. Lingiardi è uno psichiatra che ha grandi capacità divulgative. In questo volume non ci sono recensioni dei film, ma Lingiardi, diciamo che rivede virtualmente alcuni film insieme ai lettori e cerca di spiegare gli effetti che una storia produce sulla mente umana. E quindi, insomma, è una sorta di lunga seduta su film come Spectre con 007, Dogman e Dolori e Gloria di Pedro Almodóvar. Per adolescenti o per gli adulti che vogliono tentare di capirli, consiglio Ho provato a morire e non ci sono riuscito, di Alessandro Valenti, pubblicato da Atlantide. Lo scrittore ha soli 17 anni e racconta la storia di un amore problematico nato su Instagram fra un 14enne di famiglia borghese che vive a Verona e una sua coetanea di altra estrazione sociale che vive nella periferia romana. Libri per bambini. Guarda, 100 storie di artisti per scoprire il mondo, di Corrado Augias, Francesco Frisari e Nicole Suber, pubblicato da Feltrinelli. Piccole storie, sono lunghe solo una pagina, di grandi artisti, da Giotto a Botticelli, da Michelangelo a Rubens, da Van Gogh a Andy Warhol. Sempre per bambini, ma non solo, vi consiglio un libro fatto solo di illustrazioni. Insomma, non ci sono parole, neanche una didascalia. Si racconta la storia più famosa al mondo, la storia della Natività. Quindi vediamo Maria che riceve l'annuncio dall'angelo, il viaggio insieme a Giuseppe e poi la nascita. Ma l'artista Fabián Negrín, che è un famoso illustratore argentino che da tanti anni vive in Italia, ha voluto cambiare il finale, il 25 dicembre nasce una bambina, una femmina. Le sue illustrazioni ricordano per forme e per colori i dipinti di Gauguin. Il libro si intitola Il frutto del tuo seno, di Fabiana Negrin, pubblicato da Donzelli Editore. E con il jukebox letterario, quindi consigli prima di Natale, si conclude anche questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che in questo periodo delle feste andranno in onda, come sempre, delle puntate speciali. C'è il consueto appuntamento con la puntata sui libri che hanno caratterizzato, che sono stati protagonisti dell'anno che si sta per chiudere. Questa puntata andrà in onda a Natale, il 25 dicembre alle 16. E poi, come sempre, lo speciale gialli, thriller e noir per iniziare l'anno, in onda il 1 gennaio alle 16. Il Cacciatore di Libri comunque resterà sempre in onda ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30, disponibile in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.